La Rete dei Patrioti è una scissione di Forza Nuova avvenuta nel maggio del 2020, quindi dell'anno scorso, una scissione però importante. Forza Nuova ha subito nel corso della sua storia diverse spaccature, ma questa è sicuramente stata la più consistente perché ha portato via almeno la metà dei militanti sul territorio e ha portato via dall'orbita di Forza Nuova la costellazione delle associazioni collaterali che vanno dall'Associazione Vita Peron alla Lega della Terra. Quindi una rottura che ha riguardato la base da un lato, ma anche una parte significativa del gruppo dirigente e dell'associazionismo che ruotava attorno al partito di Roberto Fiore. Non ci sono contenuti programmatici diversi da quelli originali di Forza Nuova. La spaccatura è dovuta a un forte contrasto interno, segnato dall'ascesa al vertice di Forza Nuova di Giuliano Castellino di Roma, che è un personaggio che è molto conosciuto, soprattutto dal punto di vista dei reali e delle illegalità che ha commesso, per cui è un personaggio che ha legami con la malavita, è un personaggio che è stato processato e condannato anche per delle aggressioni importanti ai giornalisti dell'Espresso e della Repubblica un paio di anni fa, si è preso 5 anni di condanna e, come dire, vi è una sorta di perbenismo da parte di chi ha voluto rompere non accettando un asse dirigenziale tra Roberto Fiore e Giuliano Castellino che, ripeto, è un personaggio assolutamente squalificato. Quindi niente di nuovo per certi aspetti sotto il sole, la rete come altre formazioni della galassia nera cerca di inserirsi nei disagi dovuti alla pandemia e cerca di cavalcare delle proteste a volte all'insaputa degli stessi che vorrebbero protestare e non sanno che a volte la rete cerca di affiancarli come è accaduto nel caso che tu ricordavi. Sì, ecco, proprio un modus operandi questo, quello di cavalcare il malessere e il malumore. Sì, sì, è tutta lì l'iniziativa, se vogliamo, della destra neofascista italiana in questo momento, cioè il tentare in una prospettiva in cui si auspica il tanto peggio possibile di poter avere qualche spazio di consenso, qualche radicamento, qualche militante in più in una battaglia che viene definita contro la dittatura sanitaria e la dittatura cinese, perché si vede dietro la pandemia un grande complotto internazionale ordito dal Partito Comunista Cinese. Quindi sono, come dire, fake news, sono tentativi di inserirsi in questo modo che non hanno al momento prodotto grandi risultati. Oltre a Bologna, solo qualche giorno fa vi è stata una manifestazione a Milano semi-clandestina della rete che non ha raccolto che più di 20 aderenti. Quindi questa è la rete dei patrioti, niente di più che un gruppuscolo nato, come dire, nel solco di Forza Nuova, che è la più vecchia formazione neofascista post-missina che abbiamo conosciuto in Italia.